ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Per tutto un mese mi hanno fatto male i denti. Qui, certamente, non ci si arrabbia in silenzio, si geme, ma sono gemiti non sinceri, sono gemiti con malizia, e tutto sta appunto nella malizia. In questi gemiti, appunto, si esprime il godimento del sofferente. Se non ci provasse un godimento, non si metterebbe nemmeno a gemere. Questo è un buon esempio, signori. Lo svilupperò. In questi gemiti si esprime in primo luogo tutta l'inutilità, umiliante per la vostra coscienza, del vostro dolore. Inutile. Tutta la legittimità della natura, di cui si intende vi infischiate, ma per causa della quale tuttavia soffrite. E lei, invece, no. Si esprime la consapevolezza che il nemico non lo trovate, ma il dolore c'è. C'è! La consapevolezza che voi, con tutti i possibili Wagenheim, siete pienamente schiavo dei vostri denti, che basta che qualcuno voglia, e i vostri denti cesseranno di dolervi. Ma se non vorrà, continueranno a dolervi ancora per 3 mesi. E che finalmente, se voi non siete ancora d'accordo e protestate lo stesso, non vi rimarrà per vostra consolazione che frustarvi da per voi o farvi ben male dando dei pugni alla vostra muraglia. E assolutamente nient'altro. Ebbene, appunto da queste sanguinose offese, appunto da queste derisioni, non si sa di chi, comincia finalmente il godimento, che giunge talora alla più alta voluttà. Ve ne prego, signori, tendete qualche volta l'orecchio ai gemiti di un uomo istruito del secolo XIX che soffra di mal di denti. Magari al secondo o al terzo giorno del male, quando comincia già a non gemere più come gemeva il primo giorno, cioè non semplicemente perché gli dolgono i denti, non come un qualche rozzo contadino, ma come geme un uomo toccato dall'evoluzione e dalla civiltà europea, come un uomo staccatosi dal suolo e dai principi popolari, come ci si esprime ora. I suoi gemiti divennero in certo modo cattivi, sconciamente rabbiosi, e continuano per giorni e notti intere. Eppure quello sa da sé che dai gemiti non gli verrà nessun vantaggio. Sa meglio di ogni altro che non fa che straziare e irritare inutilmente sé e gli altri. Sa che perfino la gente davanti alla quale si produce e tutta la sua famiglia lo ascoltano già con disgusto e non gli credono nemmeno per un centesimo e capiscono tra sé che potrebbe gemere altrimenti, più semplicemente senza gorgheggi e senza contorcimenti, e che fa queste storie unicamente per cattiveria, per malizia. Beh, proprio in tutte queste consapevolezze e vergogne si racchiude la voluttà. Vi disturbo, dice, vi strazio il cuore, non lascio dormire nessuno in casa. Allora non dormite. Sentite anche voi ogni momento che mi fanno male i denti. Per voi ormai non sono un eroe, come volevo sembrare prima, ma semplicemente un uomo schifosetto, un furfante. Sia pure. Sia pure. Sono molto lieto che mi abbiate capito. Vi dà noia sentire i miei vili gemiti? Beh, vi dia pure noia. Ora vi farò un gorgheggio ancora peggiore. Non capite? Non capite nemmeno adesso, signori? No? No. Si vede che bisogna profondamente evolversi ed acquistare coscienza di sé per capire tutti i meandri di questa voluttà. Ridete. Molto lieto. Ridete, ridete. I miei scherzi, signori, naturalmente, sono di cattivo gusto, diseguali, confusi e mostrano sfiducia di se stesso. Ma è appunto perché io non rispetto me stesso. Un uomo cosciente può forse in qualche modo rispettarsi. Possibile rispettarsi sia pure un poco per l'uomo che perfino nel sentimento stesso della propria umiliazione ha osato cercare un godimento? Non parlo così adesso per qualche insipido pentimento e in generale mi era insopportabile dire «Perdonate, babbo, non lo farò più». Non perché fossi incapace di dirlo, ma al contrario, forse proprio perché ne ero anche troppo capace. E come poi? Come farlo apposta? Mi capitava di cascarci quando nemmeno per sogno ero colpevole. Questa poi era la cosa più infame di tutte. Intanto mi intenerivo lo stesso nell'animo mio, mi pentivo, versavo lacrime. E naturalmente mi ingannavo da me stesso, sebbene non fingessi affatto. Era il cuore qui che faceva delle infamie. Qui poi neppure le leggi naturali si potevano accusare, sebbene fossero proprio le leggi naturali ad offendermi continuamente e più di ogni altra cosa per tutta la vita. Fa schifo ricordare tutto questo. Ma anche allora faceva schifo. Infatti, dopo forse un minuto già mi capitava di riflettere con rabbia che tutto questo era menzogna, menzogna ripugnante, ostentata menzogna. Cioè, tutti questi pentimenti, tutti questi intenerimenti, tutti questi voti di rigenerazione. Ma voi domanderete perché mi rovinavo e tormentavo così da me stesso. Risposta. Perché era un po' troppo noioso starsene a mani conserte, sicché mi davo ai contorcimenti. Davvero? Davvero? È così? Osservate un po' meglio voi stessi, signori, allora capirete che è così. Così. Mi inventavo da me le avventure e mi componevo un'esistenza per vivere in qualche maniera. Quante volte mi accadeva, beh, per esempio, di offendermi così per nulla, apposta. Eppure sapevo anch'io che mi ero offeso per nulla, che me l'ero immaginato io, ma mi conducevo al punto che alla fine mi offendevo veramente sul serio. Per tutta la vita sono stato indotto a tirar fuori di queste storie. Tanto, tanto che alla fine non ero più padrone nemmeno di me stesso. Un'altra volta mi volli innamorare per forza, anzi, due volte, e soffrivo, soffrivo, signori, ve ne assicuro, ve ne assicuro. Nel profondo dell'animo non sembra di soffrire. Spunta un risolino. Eppure io soffro. E per di più in modo vero, autentico. Sono geloso. Vado fuori di me. E tutto per la noia. Signori, tutto per la noia. L'inerzia mi aveva oppresso. Infatti, il diretto, legittimo, immediato frutto della coscienza è l'inerzia, cioè il cosciente starsene a mani conserte. A questo ho già accennato più sopra. Ripeto con forza che tutti gli uomini immediati ed azione sono attivi appunto perché sono ottusi e limitati. Come spiegarlo? Ecco come. Essi, a cagione della loro limitatezza, scambiano le cause prossime e secondarie con quelle originarie, sicché si convincono più rapidamente e più facilmente degli altri di aver trovato un fondamento immutabile alla loro attività e così si tranquillizzano. E questo, si sa, è l'essenziale. Infatti, per cominciare ad agire, è necessario essere, in precedenza, del tutto tranquillizzati e che non rimanga nessun dubbio. Beh, io, per esempio, come mi tranquillizzerei? Dove sono per me le cause originarie sulle quali mi appoggerei? Dove sono le fondamenta? Donde le prenderei? Io mi esercito nella meditazione e di conseguenza per me ogni causa originaria se ne tira subito dietro un'altra, ancora più originaria, e così via, all'infinito. Questa è precisamente l'essenza di ogni coscienza e meditazione. Sono già di nuovo quindi le leggi naturali. E che si ha poi, alla fine, come risultato? La medesima cosa. Ricordate, poco fa parlavo della vendetta. Voi certamente non avete guardato più addentro. Si dice che l'uomo si vendica perché lo ritiene un atto di giustizia. Vuol dire che ha trovato la causa originaria, il fondamento, e precisamente la giustizia. Quindi è tranquillo da ogni parte e di conseguenza si vendica tranquillamente e con buon esito, essendo convinto di far cosa onesta e giusta. E io di giustizia qui non ne vedo. Di virtù anche non ne trovo nessuna. E per conseguenza, se mi vendicassi, tutt'al più lo farei per malignità. La malignità, certamente, potrebbe soverchiare tutto, tutti i miei dubbi, e quindi potrebbe con ottimo risultato tener luogo di causa originaria, appunto perché non è una causa. Ma che fare se in me non c'è neanche la malignità? Infatti, poco fa ho cominciato proprio da questo. In me la rabbia, sempre per effetto di queste maledette leggi della coscienza, è sottoposta a una scomposizione chimica. Guardi e l'oggetto si volatilizza, le ragioni svaporano, il colpevole non si trova, l'offesa non è più un'offesa, ma il fato, qualcosa del genere del mal di denti, di cui nessuno ha colpa, e conseguentemente rimane sempre la medesima via di uscita, cioè farsi ben male picchiando la muraglia. Finisci col rinunciare, perché non hai trovato la causa originaria. Ma prova un po' a lasciarti trascinare dal tuo sentimento ciecamente, senza ragionarci su, senza nessuna causa originaria, respingendo la coscienza almeno in quel momento. Odia o ama, pur di non restare a braccia conserte. Dopodomani, che è già il termine più lungo, comincerai a disprezzarti perché hai scientemente gabbato te stesso. Risultato? Una bolla di sapone e l'inerzia. No, signori, signori, io forse per questo solo mi stimo un uomo intelligente, perché in tutta la vita non ho potuto né cominciare né finire nulla. Io sarò un chiacchierone, un innocuo, fastidioso chiacchierone, come noi tutti. Ma che fare, se l'immediata ed unica destinazione di ogni uomo intelligente è la chiacchiera, cioè un premeditato perdersi in sciocchezze. Oh, se non facessi nulla solamente per pigrizia. Signore, come mi rispetterei allora? Mi rispetterei precisamente perché sarei in grado di avere in me almeno la pigrizia. Almeno ci sarebbe in me una qualità, in certo qual modo, anche positiva, della quale io pure sarei certo. Domanda. Chi è costui? Risposta. Un pigro. Un pigro. Ma del resto sarebbe spiacevole sentirlo dire di sé. Dunque sono positivamente determinato. Dunque c'è qualcosa da dire su di me. Un pigro. Ma è uno stato e una destinazione. Questa è una carriera. Un pigro. Non scherzate. È così. Allora sono membro di diritto del circolo più eletto e non faccio altro che rispettare incessantemente me stesso. Ho conosciuto un signore che tutta la vita si era vantato di intendersi di Lafitte. Riteneva che questo fosse un suo merito positivo e non dubitava mai di sé. Morì con la coscienza non già tranquilla, ma trionfante, e aveva pienamente ragione. E allora io mi sceglierei una carriera. Sarei un pigro e un ghiottone, ma non puro e semplice, bensì, per esempio, simpatizzante per ogni cosa bella e sublime. Che ve ne pare? Ne pare. Questo mi era passato per la mente da un pezzo, questo bello e sublime. Bello e sublime. Mi ha sì fortemente gravato sulla nuca nei miei 40 anni. Ma ciò è stato nei miei 40 anni. Ma allora. Allora sarebbe stato altrimenti. Mi sarei subito scoperto anche un'attività confacente. È precisamente quella di bere alla salute di ogni cosa bella e sublime. Mi sarei aggrappato ad ogni occasione per versare prima una lacrima nel mio calice e poi berla alla salute di ogni cosa bella e sublime. Allora tutto quel che c'è al mondo l'avrei convertito in bello e sublime, nella più lurida, incontestabile porcheria. Avrei scovato il bello e il sublime. Mi sarei fatto lacrimoso, come una spugna bagnata. Un artista, per esempio, avrebbe dipinto un quadro alla Ghe e subito avrei bevuto alla salute dell'artista che aveva dipinto il quadro alla Ghe, perché avrei amato tutto ciò che è bello e sublime. Un autore avrebbe scritto «Come chiunque voglia» e subito avrei bevuto alla salute di «chiunque voglia» perché avrei amato ogni cosa bella e sublime. Per questo avrei preteso d'essere rispettato. Avrei perseguitato chi non mi portasse rispetto. Avrei vissuto tranquillamente. Sarei morto trionfalmente. Ma è una delizia, proprio una delizia. E allora mi sarei lasciato crescere una tale pancia. Avrei messo su un tale triplice mento. Mi sarei fatto un tale naso color sandalo che ogni persona che avessi incontrato avrebbe detto guardandomi: questo sì che è un valore positivo, questo sì che è proprio qualcosa di positivo. E sia come volete, ma giudizi così fatti, fa piacere sentirli nel nostro secolo negatore. Signori,